30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Lunedì 14 marzo, a 3 giorni dal sisma, Tokyo si è svegliata in un'atmosfera di surreale normalità, con la gente che ha ripreso l'attività nel pieno dell'emergenza nazionale, spaventata apparentemente più dai possibili blackout energetici che dallo spettro nucleare delle centrali in avaria nel nord-est. Nelle strade dell'immensa capitale, un lunedì mattina apparentemente come tanti altri, allo stesso tempo anche gente, raccontano i corrispondenti, che si muove in maniera non ordinaria, qualcuno con la valigia sul marciapiede, forse pronto per lasciare la città. Paolo Soldano, vivo a Tokyo da quasi 4 anni, sono giornalista freelance e ho scritto un libro, Giapponesi si nasce. Ho vissuto il terremoto di venerdì 11 marzo in maniera molto sentita, perché ero lì. Mancava un quarto d'ora alle 3 di un venerdì pomeriggio come tanti altri, ed ero seduto alla scrivania davanti al computer quando avverto i primi tremori. Non alzo nemmeno la testa, in realtà, perché siamo abituati a sentire scosse del genere quasi ogni settimana in Giappone. Questa volta è diverso, però la scossa non solo prosegue ma si intensifica. Allora mi alzo e mi precipito fuori senza niente, senza cappotto né portafoglio, insieme ai colleghi e ad altri all'interno dell'edificio. Ovviamente il pensiero corre a mia moglie, che stava lavorando, e mentre guardo il grattacielo davanti a me oscillare tento di chiamarla più volte senza successo, perché tutte le linee sono bloccate, rimane solo la comunicazione dilatata delle email e non so che fare, né dove andare, se rientrare in ufficio, stare in strada, e faccio un po' entrambe le cose per 3 ore, durante le quali la sensazione di essere in barca a causa delle continue scosse di assestamento. Paolo Soldano, grazie di essere con noi questa sera, grazie per averci introdotto a questi momenti, a queste oscillazioni, a questa paura. Ecco, 4 anni in Giappone, poi parleremo di che cosa ha imparato e di che cosa i giapponesi le hanno insegnato rispetto appunto a quello che sono i fenomeni sismici. Prima però le vorrei chiedere, appunto tornando a quel momento, il Giappone ha detto è abituato, ma c'è stato un momento in cui ha avvertito che questa non era come le altre. Cos'è stata appunto l'intensità, la durata soprattutto? È stata più che altro l'intensità, anche se, ripeto, il terremoto, Tokyo, una città come Tokyo, che è una megalopoli ovviamente, una delle città più grandi del mondo, ha reagito a questo terremoto in maniera composta e ordinata, per quanto possibile. Appunto, a Tokyo il terremoto è stato avvertito, mi sembra, al 7.9 della scala Richter, quindi un'intensità molto forte, ma in realtà i più gravi problemi sono stati causati dall'interruzione di metropolitane e treni, non tanto dal terremoto in sé. Infatti il bilancio delle vittime a Tokyo fortunatamente è stato molto ridotto, si parla di 7 vittime, quindi molto molto ridotto. Ecco, Tokyo è una megalopoli, è una città che come un polmone respira l'umanità, si può ben dire, dei pendolari che ogni giorno contribuiscono a centinaia di migliaia a, appunto, a popolarla. Un venerdì pomeriggio, poco prima delle 3, significa bloccare il sistema. Lei ha detto 3 ore, se ho ben capito, in qualche modo cercando di riprendere un po' il controllo della situazione. La città come ha reagito a quello che doveva essere un rientro a casa del fine settimana? Esatto, la città ha reagito, ripeto, in maniera composta e ordinata. Sta di fatto che c'erano ovviamente migliaia di persone riverse per le strade che cercavano di tornare senza panico a casa come potevano. File ai telefoni pubblici per prendere la linea, perché le comunicazioni fondamentalmente erano interrotte, file per prendere i pochi taxi rimasti liberi. E comunque, ripeto, una compostezza, un senso di responsabilità che da una parte mi aspettavo, vivendo qui appunto da quasi 4 anni, ma che dall'altra mi ha sorpreso. Nin giapponesi si nasce, che come abbiamo citato è un suo lavoro appunto sui giapponesi, si racconta in più di un'occasione del fatto che una società organizzata come quella nipponica avesse previsto tutta una serie di realtà. Allora vorrei sapere, vivendo 4 anni in Giappone, in che modo si viene coinvolti in questo allenamento a rischio terremoto? Si viene coinvolti in maniera attiva, sia a livello lavorativo sia a livello personale nelle residenze e nelle abitazioni. Io personalmente ho assistito a un paio di esercitazioni varie fatte all'interno del mio condominio. Esercitazioni che agli occhi di un occidentale e di un italiano possono sembrare quasi, come dire, esagerate. Poi ti rendi conto che in realtà non lo sono in situazioni di emergenza, in situazioni così critiche come quelle che si sono presentate l'11 marzo. Quindi una estrema precisione, un'estrema prevenzione, diciamo così, perché il terremoto è un animale strano, un mostro che comunque i giapponesi stanno domando e hanno domato, l'hanno provato. Quello che non riescono ancora a domare, ahimè, è lo tsunami, quello è il vero problema. Ecco, naturalmente il terremoto, poi lo tsunami, poi la minaccia nucleare. Parleremo di questo tra un momento. Prima però le vorrei chiedere una cosa. Il terremoto appunto ha investito, quel terremoto, perché appunto in un paese abituato ai terremoti ha investito il Giappone nel pomeriggio di venerdì. Lunedì mattina Tokyo come si è risvegliata? I suoi trasporti, che poi sono la rete connettiva del sistema, in che condizioni erano? Dunque, ci sono state delle previste interruzioni di corrente che in realtà proseguiranno ancora per parecchie settimane nella cintura intorno a Tokyo. Questo cosa vuol dire? Che treni a singhiozzo, metropolitane congestionate, pendolari che fondamentalmente non sono riusciti a raggiungere Tokyo. Però è una città che ha reagito molto bene, veramente molto bene, in più maniere, gente che andava in bici al lavoro, gente che ha fatto la fila per magari 200-300-400 metri sulle banchine dei treni, addirittura fuori dalle stazioni, la fila cominciava fuori dalle stazioni, perché c'era questo processo di tornare alla normalità. Ecco, Paolo Soldano, che ringrazio ancora di essere con noi questa sera, lo ricordo, ci racconta, ci parla, ci descrive la sua esperienza, quella della città dove vive ormai da 4 anni in collegamento da Tokyo, naturalmente Giappone. Vorrei passare a un'altra fase. I giapponesi si sono concentrati per anni sul terremoto. Improvvisamente è apparso, diciamo, dal mostro di cui ha parlato, sono apparsi altri due mostri che in qualche modo sembravano quasi imprevisti: lo tsunami e poi la minaccia nucleare. Ecco, i giapponesi reagiscono alla stessa compostezza, con la stessa anche consapevolezza a questi due altri fenomeni, naturalmente collegati, molto diversi tra loro? Dunque, lo tsunami in realtà è un fenomeno che non a caso si chiama tsunami, appunto in giapponese, è un fenomeno che conoscono molto bene i giapponesi ed è per questo che hanno una certa disaffezione, diciamo così, nei confronti del mare e delle onde. Ad ogni modo lo tsunami, tra virgolette, poteva essere previsto, infatti lo è stato, cioè ci sono stati segnali di allarme. Il problema è che questi segnali d'allarme sono arrivati in ritardo, nel senso che l'onda è stata troppo veloce e questo è il vero problema. Appunto stiamo parlando di un terremoto di 9.0 della scala Richter, quindi quasi inimmaginabile, tra virgolette, anche se ce ne sono state all'interno episodi del genere all'interno della storia. Ad ogni modo lo tsunami è stato previsto, ci sono video appunto che lo dimostrano, video amatoriali di persone, di sopravvissuti fondamentalmente, sirene spiegate, gente che si ritira, che scappa, che prende la macchina, che sale sulle camionette dei pompieri, però l'onda era troppo veloce fondamentalmente, questo è stato il vero problema che ha causato migliaia di vittime purtroppo. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donnelly. Dunque, il racconto della megalopoli di Tokyo, capitale del Giappone, milioni di abitanti che fanno i conti con un evento di portata senza precedenti. Troppo rapida, troppo veloce, troppo potente, dunque, lo tsunami. Ecco, un altro capitolo che si sta evolvendo proprio anche mentre parliamo è quello delle centrali nucleari. Si è parlato e si continuerà a parlare naturalmente di Fukushima e delle altre centrali nella zona di Sendai, ma è chiaro che pensare alla minaccia nucleare in un paese come il Giappone, che è l'unico paese al mondo ad avere esperienza la più orribile possibile, appunto, della bomba nucleare, viene naturale chiedere: c'è una paura diversa, c'è una sensibilità diversa su questo tema in Giappone? È una domanda che andrà approfondita nel corso delle prossime settimane, se non mesi, se non anni. Il Giappone ha 55 centrali nucleari all'interno sul suo territorio. E appunto nonostante tutto continua nella sua scelta per il nucleare. Non so veramente se questi problemi avuti a Fukushima porteranno ad una seria riflessione nei confronti del nucleare. Io lo spero, anche se purtroppo credo che sia molto difficile, perché smantellare 55 centrali nucleari più altre già in costruzione sarà abbastanza difficile. Ecco, ancora Tokyo, come avverte nel corso dei giorni successivi al terremoto, allo tsunami, alla minaccia di appunto diffusione, inquinamento radioattivo, l'ipotesi di come ci si adatta, dove si va? C'è la sensazione di doversi allontanare, oppure la città rimane il luogo sicuro dove raccogliersi per passare questa fase di emergenza? Tokyo appunto è una città di svariati milioni di abitanti, reagisce in maniera consapevole del fatto appunto che è composta da milioni di persone, quindi si tenta di vivere la normalità, seppure sia molto difficile. Ci si ferma, e questo, uso questo verbo perché appunto in qualche caso può essere limitativo, ci si ferma alle dichiarazioni del governo, alle dichiarazioni ufficiali, quindi si tenta di semplicemente attenersi a quello che le fonti ufficiali dicono. E si aspetta. Un'ultima domanda in conclusione, lo ricordo, Paolo Soldano, lo ringrazio per questo racconto che ci arriva appunto da Tokyo. La comunità italiana, le comunità degli stranieri, ma in particolare la nostra, come si sta muovendo? Avete diciamo attivato dei contatti, oppure nella grande megalopoli in realtà si è cittadini della città e per la comunità nazionale non c'è spazio? I cittadini italiani, così come molti altri stranieri, sono completamente impazziti da un certo punto di vista. La comunità internazionale ha preso valigie e zaini ed è partita verso il sud e chi poteva verso l'Europa addirittura. È stato il panico soprattutto nei primi giorni, ed è una cosa irrazionale che ovviamente deriva dalla paura. Ognuno fa le scelte che vuole. È chiaro che la comunità internazionale non si è dimostrata così tanto unita alla popolazione giapponese e ha dimostrato di credere soprattutto ai media di magari 10, 12, 15 mila chilometri di distanza, piuttosto che cose che poteva benissimo su cui poteva benissimo riflettere stando qui e affidandosi a media un po' più coerenti, un po' più sul pezzo, come si dice. Interessante questo punto, cioè lei avverte una differenza netta tra quello che raccontiamo dall'Europa e quello che raccontano i media giapponesi, potendo anche interpretarli e capirli entrambi? Una differenza netta c'è dal punto di vista soprattutto dei racconti dei pseudo inviati qui sul campo, che è evidente che non abbiano una preparazione, che siano stati mandati qua praticamente da un giorno all'altro, perché sbagliano i nomi delle stazioni delle metropolitane, non hanno la più pallida idea della gestualità piuttosto che del modo di rapportarsi dei giapponesi, soprattutto nei confronti di un occidentale. E questo ovviamente influenza tutta la categoria, non solo italiana, dei media. Insomma, in conclusione, mi sembra che quello che si ritiene e che sta raccontando in maniera molto chiara, i giapponesi che in qualche modo si raccolgono, si stringono, è il loro paese, la loro isola, il luogo dove vivono e vivranno, è una comunità internazionale sempre più, diciamo, attirata da una partenza anche comprensibile, dal mettersi al sicuro, magari lontano. Esatto, è proprio, c'è questa... come se fossero due entità diverse all'interno dello stesso problema, perché comunque c'è da dire che il problema c'è, nessuno lo sta negando. Vi dico la verità, anch'io ho pensato molte volte di abbandonare Tokyo, ovviamente temporaneamente. Vedremo cosa succederà. Grazie a Paolo Soldano, lo ricordo, in collegamento da Tokyo, grazie per essere stato con noi questa sera e condividere appunto il racconto di chi in Giappone vive ormai da più di 4 anni. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci.